24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero e del tacchino, quella di Bersani. Già. L'ha capita? Allora, farò un master in bersanese. Buongiorno cari italiani, eccoci qui, riparte una settimana di 24 mattino ed è lunedì. Che giorno è? Lunedì 18 marzo. Oggi mi sono affacciato a Milano alle 5 del mattino e ho detto: oh, è quasi primavera, mi ha colto un'ondata di neve, Saluto l'alpino Peter Bescapè, lui sarà contento, con la neve ci è abituata, affonda fino al ginocchio il piede nella neve. Vedo Miriam Lucchetti come al solito che corre di qua e di là. Uno pensa che tutto sia tranquillo alle 6.32 di una calda e simpatica mattina, almeno all'interno di uno studio radiofonico, e invece c'è sempre qualcuno che corre. Siamo vivi, siamo brillanti. Allora vogliamo aprire il nostro Parlamento. Parlamento che ha deciso, si è dato un presidente. Anzi, tutti e due i presidenti. Che non è Nicole Minetti, per carità. Abbiamo barman generosi come Santa Claus. Però è un'altra donna, Laura Boldrini, presidente della Camera. Allora, vi piace? 349-238-6666 per i vostri messaggi. Dopo una vita all'ONU. Circolava la battuta migliore di Lia Celi su Twitter, si sono dati una presidente che si occupa di rifugiati e profughi, pensano insomma al loro futuro i politici. E poi Piero Grasso al Senato. Laura Boldrini è di SEL, è stata eletta con SEL, quindi con Vendola, mentre Piero Grasso del Partito Democratico, dramma, grillino, si sono spaccati, eccetera. Intanto io voglio salutare Bimbo Alieno, buongiorno, il nostro blogger economico, buongiorno. Buongiorno a tutti. La domanda di Prassi per tutti gli italiani è: avete per caso un conto corrente a Cipro? Ma c'è poco da scherzare, dopo magari ne no, no, non c'è poco da scherzare, sì, certo che c'è poco da scherzare. Faccio questa prima domanda per forza. Bimbo Alieno lavora per le banche, ti sento già terrorizzato, perché cosa vuol dire? Allora, spiegalo tu, cosa hanno fatto a Cipro notte tempo praticamente? Allora, Cipro è uno di quei paesi tipo la Grecia, il Portogallo, e insomma per certi versi anche l'Italia, anche se non formalmente, cioè insomma l'Italia ancora non ha avuto bisogno di chiedere degli aiuti, è uno di quei paesi che ha chiesto aiuto, però abbiamo scoperto che è diventata una provincia ligure, nel senso che l'aiuto generalmente si chiama bailout, perché arriva con interventi che arrivano da fuori. In questo caso si chiama bail-in, perché arriva con interventi dall'interno, con un prelievo forzoso sui conti correnti. Di quanto? Che arriva fino al 9%. Arriva fino al 9%, ma inizialmente la prima richiesta era addirittura di un 40%. Sì, questo perché c'è una cosa importante, c'è una sorta di giudizio morale. Il problema di Cipro si è generato sul carattere finanziario, perché le banche erano strapiene di depositi per ragioni geopolitici, fiscali, strapieni di depositi di oligarchi russi. Ho capito, ma mica possono andare, cioè se tu fai un prelievo mica puoi farlo con i cognomi. In base ai cognomi, cioè quelli che finiscono in off Inovski, lì andiamo a stanare. Quelli che... No, vabbè ragazzi, ma qui c'è poco da scherzare, è incredibile. Stiamo parlando di una cosa tipo giustizia di piazza, quella che fa una folla inferocita, la fanno le istituzioni. Certo, allora, no, c'è da dire che già qui in Italia vedemmo la questione del prelievo forzoso, nottetempo, col governo Amato, però insomma erano percentuali diverse intanto. 0,4% esatto. Contro 6,75%. No, ma è chiaro. 10, diciamo. Ovviamente a Cipro cosa c'è stata? La ressa per andare ai bancomat e cercare di tirare soldi. E quando? Di sabato e domenica? No, sarebbe oggi, ma... hanno pensato bene di chiudere le bank holiday, cioè banche chiuse oggi, domani, così intanto hanno 2 giorni per parlare alla città. Ragazzi, se devi dare una stangata devi tenere bene ferma la vittima, il cappone, e dargliela bene sul collo, perché mica se no mica sei stupido, no? Ecco, però da questo dobbiamo trarre un importante insegnamento, perché adesso voglio dire, le cose quando accadono bisogna anche cercare di capire come funzionano. Allora, quando ci diciamo lo spread è un'invenzione perché l'Italia è solvibile, allora l'Italia è solvibile nel senso che per patrimonio immobiliare, per patrimonio pubblico, sì, per riserve auree, l'Italia effettivamente lo è solvibile, però aggiungerei un purtroppo. Mi spiego. Quando un ente esterno, tipo il Fondo Monetario, interviene per darci una mano perché da soli non ce la facciamo, sì, a gestire che le scadenze del nostro debito, il soggetto esterno, voglio dire, no, non è che si interessa della nostra politica interna, cioè noi abbiamo una richiesta di politica interna, vogliamo una politica economica di crescita. Bimbalieno, sono quattro minuti che parliamo di Cipro, No, certo. Intanto fammi salutare Alberto Forchielli che ci ha raggiunto. Alberto, buongiorno, dove si trova oggi? Salve, no, sono a Roma, A Roma. Bellissima. Che voce. A Roma cosa succede? Cosa succede a Roma? No, sono qui per lavoro, ma è sempre. È sempre bello, Sì, è sempre. Ma cosa le piace di Roma? Della politica, no? No, beh. C'è fermento. Ma no, sono qui sul in un albergo nel centro. Sempre. La città eterna. Ah, ragazzi, la città eterna. Voglio dire, adesso. Sentendo che compare. Bene Canton, va bene Nimbò, però capito. Roma. Roma è sempre Roma. Roma. Poi con questa politica, no, questi governo, certo, ormai. Ha già visto i toto ministri che leggo. Ah, intanto le piacciono Boldrini e Grasso, come sono andate queste votazioni? Ci sono i grillini. Attenzione, tra l'altro, Grillini è a Roma, Forchielli, Sì, perché mi torturano. Hai visto? Cioè, su Twitter, è stato torturato Forchielli. Sì, si attaccano ai maroni, cioè, non te li stacchi più, sono una roba, e ricopi anche tu, hai visto che roba? Twittiamo subito Miriam, Forchielli, i grillini si attaccano ai maroni e non te li stacchi più, ecco così. Sì, così. È una roba. Sono molto attenti a quello che succede sulla rete, alle dichiarazioni, eccetera. E che l'hanno fatto? No, si attaccano e vogliono aver ragione loro, capito? E non si riesce a ragionare. Io faccio un distinguo, io per i grillini ho simpatia, ho quasi tenerezza, capito? Perché sono ragazzi, per la maggior parte, che sono stati privati di un futuro. Addirittura, di che cosa? In che senso? Beh, questa generazione, che adesso io non seguo, mi sembrano tutti ragazzi tra i 25 e i 35 anni. Ah, dice, sono arrabbiati, no? Perché è una generazione perduta questa in Italia, capito? Non è neanche colpa loro, però... E quindi reagiscono così. So, Bimbaliero, tu hai detto qualcosa mai contro i grillini? Vuoi approfittare che twittiamo subito, così, insomma. Cosa ne pensi dei grillini? Forza, un giudizio forte però, perché sennò... fare un po' da scudo umano ad Alberto. Vorrei fare però una battuta, diciamo così, adesso sulla questione dell'elezione di Grasso. Inizialmente io onestamente ero convinto che fosse stata una mossa tipo Prima Repubblica, cioè avevano scelto il meno peggio e avevano deciso di dargli quei voti che servivano a garantirgli la maggioranza senza fare un'adesione di gruppo. Poi in realtà ho maliziato perché vedo che c'è la caccia. La caccia al grillino dissidente. Però io mi chiedo, no? Cioè, qualche tempo fa io mi ricordo che c'era Grillo che diceva sono nostri dipendenti, perché lui era uno di noi. Adesso che è diventato qualcun altro sembra che dica sono miei dipendenti. Ma non si sa, il problema è che lui ha stabilito delle regole. Forchielli, io continuo a credere, magari sbagliando, che Kim Jong-il faccia bene, nel senso che o li controlla così, lo dico sempre, o non li controlla. Non va bene questo, Forchielli, lei che è abituato a delle democrazie come in Cina, dove tutto si può dire, non fa bene un po' a controllarli così, Kim Jong-il? No, beh, guardi, neanche in Cina c'è un controllo tale sui membri del partito, in Cina c'è un dibattito, capito? Le minacce, i blog cancellati, qui ormai siamo veramente Kim Jong-il, qui ci siamo spostati su un una situazione nordcoreana. Nordcoreana. Sentite... Sì, ma loro poveretti non, se ancora non si rendono conto di dove sono capitati, capito? Ma dove capitate, in che senso? Nel movimento o ma capitate sì, per... Sì, ma come questo... no? Ma come? Ma ci voglio, si sono entrati con massima forza, anzi... Sì, sì, ma questo risvolto del movimento, capito? Autoritario, massimalista, che li vuol forzare a far passare uno Schifani rispetto a un Grasso, sono cose che... non erano né scritte né previste, capito? Ma secondo me erano abbastanza previste. Comunque sentite Bersani, purtroppo l'audio non è dei migliori, era a Brescia a un incontro dopo le elezioni delle Camere. Sentite Bersani, li ha paragonati al leninismo. Sentite Bersani sui grillini. Io vedo che il Movimento 5 Stelle fa le riunioni chiuse e poi vuole lo streaming quando va dal capo dello Stato, secondo un antico principe. Leninismo. Sono grandi invenzioni. Sono un cuneo, mi organizzo più o meno segretamente, poi approfitto di tutti gli spazi che la borghesia cogliona capitalista mi dà. Forchielli, avete capito Bersani? No, è interessantissimo. Io l'ho letto questa dichiarazione. È detta da un ex comunista doc. Infatti, no? È uno che quei metodi li conosce bene. Lui praticamente dice approfittiamo delle debolezze per fare i democratici, poi al nostro interno non lo siamo assolutamente, tutti gli altri sono coglioni. Però quello che voglio dire è che quei ragazzi lì, io sto facendo un distinguo, sì. I grillini sono in buona fede, poveretti, capito? Perché un'evoluzione così a quell'età lì non possono capirla, capito? Però cosa fanno? Si aggrappano ai maroni comunque. No, beh, sì, poi vabbè, c'è un sacco di gente disperata, si aggrappa ai maroni in compagnia, ma voglio dire, certo, sono fanaticizzati, capito? È la grande ondata democratica, capito? Invece sì, sì. Si sono messi in mano a uno sciacallo da macerie. Addirittura uno sciacallo da macerie. Ma sì. Twittiamola questa, su Beppe Grillo è uno sciacallo da macerie. In questo senso, ormai l'atteggiamento di Beppe Grillo è quello di spaccare tutto e raccogliere, per poi andare a fare lo sciacallaggio su quello che rimane. Oh, Bimbo Alieno, qui vogliamo poi oggi sostenere un attimo Forchielli, che passerà una giornata di quelle intense, come dire, su Twitter, sul suo profilo. Il suo profilo è @Forchiel. Twittiamo adesso. Forchielli, giusto. Forchielli, sì. Com'è, Alberto? Forchielli. Forchielli, sì. Perché Forchielli? Forchielli. Bimbo Alieno, che dobbiamo fare? Cioè, qua adesso sembra che tutto però si sia spostato. Voglio spezzare una lancia per il Movimento 5 Stelle, come se adesso la colpa di tutta questa situazione sia sua dal punto di vista politico, cioè del movimento, dei grillini, del casino, della politica che non decide nulla. Tra poco vi do i nomi dei toto ministri che girano sui giornali, una roba incredibile. È colpa tutta del Movimento 5 Stelle, Bimbo Alieno? Ma no, la questione è che si è ingenerato un clima di non dialogo, con reciproche accuse di impresentabilità da una parte all'altra. Normalmente quando ci sono tre soggetti si stabilisce una democrazia perfetta, perché ogni volta c'è una maggioranza, ma qui il problema è che sembrano tre poli idrofobi che si respingono uno con l'altro certo. Per diverse ragioni non si riesce a trovare la cosiddetta quadra. Oggi il Corriere della Sera titola così: torna la politica dei veti, i veti, non si capisce nulla. Io l'ho detto, rinchiudiamoli in conclave in Parlamento, non escono da lì finché non si produce un governo con già tanto di fiducia. Certo, se girano i nomi che girano sui giornali per il toto ministri, tra poco ve li do dopo il traffico e la segreteria. Forchielli, ascolti bene la segreteria, che c'è un messaggio anche per lei. 24 mattino. Sto vedendo la televisione adesso e c'è Lupi che dice che con la loro politica hanno allontanato gli italiani. Ma mi sa che d'ora in poi ci avvicineremo alla politica e a loro stessi, visto che fanno le manifestazioni dove non dovrebbero farle. E allora se ne accorgeranno. Volevo rispondere a quella signora che ha parlato dei Marò. Signora, se ci fosse stato suo figlio Marò nelle mani dell'India, avrebbe parlato di omicidio colposo a cuor leggero così come ha fatto? Faccio una proposta a tutti quelli che come me hanno votato il Partito Democratico. Impegniamoci a versare 5 euro all'anno per sostenere le strutture del partito. Aboliamo il finanziamento pubblico ai partiti in modo da mandare a fare in culo tutti questi demagoghi del cazzo e governiamo finalmente questo paese in modo serio ed in modo capace come noi siamo sicuramente capaci di fare. Sono 10 giorni che andati avanti con questa storia qua, che ho fatto i castelli di sabbia, allora voglio fare il ministro delle infrastrutture. Basta, basta, perché mi sembra che fino all'altro giorno i dentisti hanno fatto le leggi elettorali e chi c'aveva la televisione ha fatto la legge Gasparri. Mamma mia, quell'esperienza lì mi è servita un casino, no? Capivano un cazzo. Forchielli, Forchielli forever, è il numero uno. Di tutti gli ospiti che c'hai è l'unico che dice delle cose sensate, capito? Capito? Forchielli, buongiorno. Eccoci, questa volta un messaggio, temeva già un messaggio di un grillino arrabbiato. Sì, no? Sì, ero tutto terrorizzato. Contorto, sì. Allora, sentite, siamo con Alberto Forchielli e con Bimbo Alieno. Sentite Berlusconi che si è presentato con gli occhiali da sole per votare, gli occhiali da sole per i problemi agli occhi al Senato. È stato contestato così e allora a un certo punto si è fermato. Arrabbiato, eh? Sentite Berlusconi. Buffone! Vergognatevi! Siete dei poveri ignoranti stupidi! Eccolo lì, Forchielli, il combattivo, il giaguaro, no? Che tira fuori gli artigli. Vergognatevi, stupidi! Ma quello anche. È in un angolo ormai. Ma come in un angolo? Ha preso milioni di voti. Lo so, però c'ha 70% di italiani che lo vogliono a testi giù a Piazzale Loreto e quelli che hanno votato per lui hanno votato tappandosi il naso. Twittiamo subito, per favore, il 70% degli italiani vuole Berlusconi a Piazza Loreto a testa in giù. Ma Forchielli, a Bimbo Alieno, questo è peggio di Grillo, ma il 70%... No, è il sentimento che trovo, ossia... Poi Berlusconi in realtà... Ma che statistica? Ma chi gliel'ha detta questa statistica? Beh, guarda, 70%. Faccia PD, più grillini, più anche la lista civica. È arrivato in Parlamento. Capito, e quelli lo vogliono così. Lo vogliono così. No, c'è Bimbo Alieno che tentava di dire qualcosa. Ma prego. No. Salvaci tu. Anche, è stato anche divertente, arrivato in Parlamento in questo Gangnam Style che sono anche divertente. vabbè, insomma, nessuno qua adesso mi massacreranno anche su Berlusconi. Vabbè. Allora, sentite questa, l'avete vista la Luce Annunziata ieri? La Luce Annunziata secondo me a un certo punto ha perso un po' la testa, perché da quando Giuliano Sferrara ha sdoganato l'idea che essere faziosi è un pregio invece che un difetto per il giornalismo, anche uno fa un'intervista e anche a me lo dicono quando ho degli ospiti: massacralo, distruggilo, annientalo, è un'intervista, uno in intervista fa le domande e magari cattivelle, cioè, e l'altro fa le risposte e poi l'ascoltatore giudica, no? Invece sentite la Luce Annunziata a Alfano. Noi abbiamo già detto di essere pronti ad uno schema che abbia come bussola il bene dell'Italia. Ma scusi, la Merkel, quando è successo in Germania, l'ha fatto. Perché Bersani non ha il coraggio di fare un gesto di questo genere? Forse perché voi siete impresentabili, ma voi vi rendete conto? Scusi, allora adesso mi faccia dire... Impresentabili, segue Rissa! Ma come si permette di dire impresentabili noi? Da quale titolarità di cattedra etica può venire un giudizio di impresentabilità a chi prende i voti, milioni di voti, della maggioranza degli italiani da 20 anni? Segue Rissa che teniamo in sottofondo. Forchielli, allora ha fatto bene l'Annunziata, ma come si fa a dire? Cioè, adesso io capisco tutto, è la conduttrice, sta facendo un'intervista, forse voi siete impresentabili. Cioè, può pensare quello che vuole, per carità, però... No, ma... è un errore, ha sbagliato l'Annunziata, la verità è che il PD non può fare un accordo col PDL perché sarebbe un partito, si distruggerebbe, hanno già provato con Monti, poi l'ha fatto cadere il PDL. In questo momento non è credibile un accordo con Berlusconi, sarebbe veramente una catastrofe per il PD. Oggi il giornale, sai come titola oggi il giornale? Odio di Stato in diretta TV, prima pagina, con Sallusti che dice che Lucia Annunziata è isterica, acida, la no. Monti in gonnella, una insopportabile rompicoglioni. No. Ecco, questo è il giudizio pacato di Sallusti su Lucia Annunziata. No, guardi... un accordo istituzionale PD e PDL porterebbe Grillo al 50%, sì. Sarebbe indecente. Anche capito? Se i nomi, vi lascio con il toto nomi che circolano, pensa Bimbo Alieno per i ministri, è Milena Gabanelli, Carlin Petrini, Don Ciotti, Roberto Saviano e Alessandro Cecchi Paone. Questo potrebbe essere il governo, seguono applausi miei, insomma, perché... come la vede Forchielli un governo così? Mi dica un giudizio sintetico con questi nomi. Io penso che in questo momento la cosa migliore per l'Italia è non avere un governo. Come il Belgio. Viva il Belgio! Voglio dire, un governo può fare solo danni. I conti sono in ordine. Quindi, nessun da qui governo. All'estate, un governo può fare solo danni. Perfetto. Perché per il resto... noi sotto la posizione fiscale e finanziaria siamo impeccabili. Stiamo così. Certo, non faremo così. Riforme strutturali, ma tanto... E che governo in grado di farli? Ma sono d'accordo anch'io, stiamo così. Invece che Don Ciotti, Carlin Petrini, Cecchi Paolo, stiamo così. Dai, vi devo salutare, Bimbo Alieno, Alberto Forchielli, grazie. C'è il giornale radio, ci sentiamo per la rassegna stampa dopo. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, le 7:22 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi ci prenderemo anche come ospiti alle 8:15 una piccola pausa dalla politica. Volevo parlare di cure, di libertà di cure, di diritto alle cure. Parleremo del caso di questa bambina di Firenze, affetta da una grave malattia per la quale un tribunale ha stabilito di fare delle cure particolari, delle cure anche molto dibattute. Un po' si ripropone la questione del caso di Bella tanti anni fa, qui così vorremmo impostare la trasmissione, cioè, ma insomma, ma chi è che ha diritto di stabilire se si debba somministrare una cura? Un medico? Uno penserebbe così nella normalità, invece a volte capita che siano i tribunali a deciderlo e quindi dei magistrati. Insomma, annosa questione, annoso dibattito su come curarsi a suon di sentenze, a volte ne parleremo alle 8:15. Ora appunto però andiamo a tuffarci nella rassegna stampa con quello che è la politica, questa maionese impazzita in cui qualcosa va nelle caselle giuste, come la nomina dei presidenti di Camera e Senato, ma tante altre cose, come per esempio il governo, siamo ancora in alto mare. Andiamo a scoprirlo. Questo lunedì 18 marzo, intanto i titoli, il Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì, ha una buona notizia in prima pagina, cari italiani, ovviamente si scherza, IMU, IVA, TARES, 5 miliardi di rincari, 5 miliardi in arrivo di tasse con i rincari. La politica invece, Corriere della Sera, i veti bloccano la politica, questo è il titolo di prima pagina che è già emblematico di come sia uno stallo totale. Repubblica, Grillo, scontro sui senatori ribelli, Il Messaggero, Grillo PD, sale la tensione, Il Secolo XIX, l'ira di Grillo scuote i 5 Stelle, L'Unità, Grillo finisce sulla graticola, La Stampa invece ha un'intervista a Mario Monti, l'amarezza per il no, Mario Monti che voleva fare il presidente del Senato, si era proposto ma è stato fermato da Napolitano. Mentre per il Fatto Quotidiano, edizione del lunedì, l'incubo Grillo, tradimento a 5 Stelle, Napolitano lavora per Monti, quindi torna la vicenda, torna il nome di Monti sul Fatto Quotidiano. Mentre il Giornale, da qui voglio partire, addirittura c'è questo titolo di prima pagina, annunziata sciocca su Rai 3, odio di Stato in diretta TV. Allora, avete visto l'intervista di Lucia Annunziata ad Alfano? No, in ogni caso, se non l'avete vista, c'è stato questo battibecco iniziato quando Lucia Annunziata ha detto al segretario del Popolo della Libertà forse che non si può fare un accordo perché voi siete impresentabili. Di fronte a questo aggettivo è partita una discussione tra lo stesso Alfano, tra Lucia Annunziata, molto molto serrata, la polemica, il Giornale titola appunto così, odio di Stato in diretta TV da parte di Lucia Annunziata. Per la verità tutti i giornali si concentrano su questa telerissa, Il Messaggero a pagina 11 racconta Annunziata impresentabili e Gubitosi la convoca. Gubitosi è il direttore generale della RAI, scrive Il Messaggero a pagina 11, il direttore generale della RAI Luigi Gubitosi ha convocato per oggi Lucia Annunziata, conduttrice a rubrica in mezz'ora, e anche il direttore della rete Andrea Vianello per esaminare il caso della lite in diretta di ieri pomeriggio tra l'Annunziata stessa e il segretario del PDL Angelino Alfano. Quando a un certo punto Annunziata ha sottolineato con un voi siete impresentabili un passaggio dell'intervista. Con quale autorità si permette di dire questo a chi ha ottenuto così tanti voti dagli italiani? Ha risposto Alfano, e lì è iniziata appunto questa discussione. A chi gli ha potuto parlare, scrive Il Messaggero, Gubitosi ha spiegato di non voler entrare nel merito del contenuto dell'intervista, ma si è detto estremamente seccato per la caduta di stile di Lucia Annunziata. In ballo c'è lo stile giornalistico, ha sottolineato Gubitosi. Nel corso della trasmissione, subito dopo quel siete impresentabile, la stessa Annunziata ha parzialmente corretto il tiro dicendo mi scuso per il mio giudizio molto franco, ma ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. Insomma, da lì è partita la solita raffica di dichiarazioni con le ANSA, le agenzie che impazzivano, tutti contro l'Annunziata, chi la difendeva, pochi, quelli del Popolo della Libertà contro, il Giornale che dedica pagina 3, PDL impresentabile, scoppia la rivolta contro l'Annunziata, e anche un editoriale di prima pagina di Alessandro Sallusti nel quale sentite con che tono Sallusti si rivolge a Lucia Annunziata, isterica e acida, lo è sempre stata, avete presente quelli che hanno la puzza sotto il naso? Ecco, lei è quella roba lì, un Mario Monti in gonnella, o come la definiva nei tempi della sua e mia frequentazione al Corriere della Sera, una insopportabile rompicoglioni. Questo è l'editoriale di prima pagina di Sallusti sul Giornale. Cara maestrina Lucia, campione di giornalismo dei miei stivali, impresentabile sarai tu e tutti quelli come te, una manica di frustrati che non ne hanno mai azzeccata una, politicamente umiliati dalla storia, sconfitti dalla cronaca, soprattutto quella elettorale. E dire che i suoi amici comunisti l'avevano affidato pure la presidenza della RAI ed è stata l'Annunziata una lottizzata della politica, campato e campa con tanti soldi pubblici frutto dei sacrifici dei 10 milioni di impresentabili elettori del centrodestra. Insomma, uno sfogo vero e proprio che finisce così, mandate tutti a pettinare le bambole con Bersani che magari quello vi viene bene. E insomma, la telerissa ha prodotto questo, in questa politica davvero incredibile. Io lo ribadisco per l'ennesimo giorno, chiudiamoli tutti in Parlamento, hanno fatto il Presidente della Camera, hanno fatto il Presidente del Senato, chiudiamoli lì. Tutti, facciamo le consultazioni lì, spostiamo il Quirinale lì, oppure facciamo un passaggio, tanto non sono distanti dal Quirinale al Parlamento, un bel tunnel, chiusi, col comignolo, finché non formano un governo stiano lì mesi, anni, ovviamente con la buvette a prezzi ridotti. Se volete iniziare la settimana anche con il bel mantra mani sul volante, leggetevi Sergio Rizzo a pagina 23 del Corriere della Sera, mezzo servizio ma doppio stipendio, è il prefetto di Palermo che è anche a capo della provincia di Roma. è un caso un po' raro, ma è un caso del decreto Salva Italia, l'impazzimento di ciò che ha prodotto la non cancellazione delle province. Il prefetto di Palermo, che è insieme, è da mesi commissario straordinario della provincia di Roma, che da 3 mesi è senza il suo presidente eletto, racconta Sergio Rizzo. Ovviamente tutto questo a doppio stipendio: prende il prefetto di Palermo come commissario straordinario a Roma 8.505 euro lordi al mese, più 47 centesimi, oltre allo stipendio, ripeto, da prefetto di Palermo. E poi c'è il subcommissario vicario, Clara Vaccaro, che prende 6.379 euro, sempre lordi. Gli altri 3 subcommissari, Paola Berardino, Antonio Colaianni, Giuseppe Marani, 5.528 euro, retribuzioni stabilite tutte per decreto prefettizio, per carità. Mezzo servizio, perché ovviamente sta a Palermo, ma sta anche a Roma, ma doppio stipendio. Questa è l'Italia, il prefetto capo della provincia di Roma. È il caso del commissario Postiglione, che ha preso il posto di Zingaretti. Lui stesso, racconta Sergio Rizzo, ne era stato consapevole qualche mese fa, quando aveva detto: non è che posso reggere a lungo questo doppio stress. No, per carità, non può reggere a lungo questo doppio stress, ma di certo è a mezzo servizio a Palermo e a mezzo servizio a Roma, a meno che non abbia il dono dell'ubiquità, ma lo stipendio, quello è doppio, con un vicario e altri 3 vice. Non avete voluto cancellare le province? E beccatevi questa. Ed ecco Alessandro Milan, che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Sono le 7:36 minuti, eccoci qua. Allora continuiamo in questo rebus della politica. Mercoledì inizieranno le consultazioni, forse entro fine settimana si arriverà a un mandato pare esplorativo, con riserva a Pierluigi Bersani. Questo dovrebbe succedere dopo che nel weekend sono stati eletti i presidenti di Camera, Laura Boldrini, eletta con Sel, e al Senato Piero Grasso, eletto nel Partito Democratico. Dopo queste elezioni, che hanno lasciato molti strascichi che ora vediamo sui giornali, c'è, secondo i retroscena dei quotidiani, un maggior ottimismo da parte di Pierluigi Bersani sulla possibilità di formare un governo. Bersani ai suoi: governo anche solo di 2 anni, questo titola a pagina 5 il Corriere della Sera, è un articolo di Maria Teresa Meli. Ragazzi, si può andare avanti, c'è la concreta possibilità di fare un governo. Questa è la sensazione con cui inizia questa settimana decisiva Bersani, anche perché, racconta il Corriere, Renzi vorrebbe, preferirebbe dall'altra parte proprio un governo di 5 anni. Un governo che duri una legislatura, per me è anche meglio, avrebbe detto Renzi, così mi ricandido a sindaco e ho il tempo di rafforzarmi nel partito e anche all'esterno. E ovviamente impazza il Toto Ministri. Io ve lo do così, cari ascoltatori: ci sono dei nomi, che voglio dire, di politici, dei nomi istituzionali, e ci sono dei nomi magari un po' che sparigliano le carte, perché questa è l'idea, secondo Monica Guerzoni, sempre sul Corriere della Sera, pagina 5 di Bersani, fare un po' il metodo Boldrini, cioè sparigliare un po'. E allora ecco che entrano Toto Ministri, anzi Toto Ministre, Maria Chiara Carrozza, rettore del Sant'Anna di Pisa, la filosofa Michela Marzano, Paola Muti della Regina Elena, Irene Tinagli, economista eletta con Monti. E poi però anche altri nomi, Alessandro Cecchi Paone per un futuribile Ministero dei Diritti Civili. Questo lo proporrebbe il socialista Riccardo Nencini, che avrebbe anche tra i nomi il campione delle nanotecnologie applicate alla medicina, Mauro Ferrari per la sanità. Si parla poi di Miguel Gotor, molto vicino a Bersani come ministro all'istruzione. Per gli interni si vocifera di Emanuele Fiano, onorevole del Partito Democratico. Per il lavoro di Guglielmo Epifani, ma chissà, anche forse l'ex leader della CGIL appartiene ormai a un'altra era. Il Toto Nomi che continua un po' su vari giornali, il Giornale tira fuori il nome che ogni tanto viene associato alla politica, Roberto Saviano, avrebbe questo in ballo Pierluigi Bersani, esecutivo radical chic per far fuori il fantasma di Renzi, e tra questi c'è anche l'ipotesi Saviano. Mentre in un retroscena di Repubblica, a firma Francesco Bei, che trovate in prima pagina, tornano dei nomi invece un po', come dire, che di nuovo hanno... hanno poco. Perché? Perché sarebbe questa una delle carte di Bersani. Udite, udite, Bersani è sicuro di essere sul Frecciarossa, direzione Palazzo Chigi. Venerdì ci davano già per morti, adesso mi sa che devono spostare un po' la data del funerale, dice Bersani. L'idea potrebbe essere quella di trovare un outsider per Palazzo Chigi, Stefano Rodotà o Prodi. Prodi. Io quando ho letto Romano Prodi, beh, insomma, se questo è il nuovo Romano Prodi, non sembra molto nuovo. Comunque, nomi che spiazzino i 5 Stelle e li costringano a uscire dal loro splendido isolamento, questa è l'idea che sta facendo strada, di cui parlano in molti sottovoce, ma nessuno esce allo scoperto finché è in campo il segretario Bersani. L'unico che ha il coraggio di teorizzare tutto questo è Pippo Civati, che nel suo blog l'ha definito il piano C. Si fa un governo a tempo determinato, un governo del Parlamento, sulla base dei punti che si stanno discutendo in questi giorni, si cerca una figura che piaccia al PD e al Movimento 5 Stelle, se a quest'ultimo non dovesse andare bene il governo Bersani. Beh, effettivamente Prodi è una persona, delle poche persone che Beppe Grillo incontrò quando era Presidente del Consiglio. In quest'ottica, cioè cercare un nome che possa piacere, possa essere gradito, che non sia Bersani, anzi Gargamella come lo ha chiamato ancora ieri Beppe Grillo, ma che sia esterno, Romano Prodi potrebbe essere il più vicino al Movimento 5 Stelle. Certo, qui di novità ce n'è un po' poca. Il rebus è tutto nelle mani del capo dello Stato, Giorgio Napolitano, perché è lì dalle consultazioni, la possibilità del mandato, è lui che deve decidere il Quirinale, come prevede Costituzione, il modo per formare un governo. Certo, racconta Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera, il rebus per Napolitano, esecutivo con numeri certi. Questa è l'idea di Napolitano, dare un incarico se ci sono i numeri certi, altrimenti c'è il rischio di prendere anche una, come dire, di bruciarsi un pochettino. L'idea è il diritto di aspettarsi per Bersani tra giovedì e venerdì un incarico probabilmente non pieno, anche se ancora non dispone di numeri certi per assicurarsi la fiducia a Palazzo Madama. Certo, dal punto di vista di Napolitano, ogni giorno perso è un rischio in più per la nostra economia sotto stress. Verrebbe da dire, però, le consultazioni partono mercoledì. Perché questi due giorni di tempo? Tempi istituzionali. Oggi che si fa? Niente. Domani che si fa? Niente, tutte telefonate per cercare gli accordi, per cercare le maggioranze, tutti accordi sotto traccia. Dall'altra parte tutti i giornali raccontano il vero e proprio psicodramma all'interno del Movimento 5 Stelle. Viene utilizzata questa parola giustamente, perché quello che è successo con l'elezione soprattutto di Piero Grasso al Senato, cioè con molti o alcuni, una quindicina credo di eletti nel Movimento 5 Stelle che non si sono attenuti alle regole, e Beppe Grillo subito ha tuonato. Si assumano le responsabilità del gesto che hanno fatto. Che devono fare? Uno, Giuseppe Vacciano, senatore, esce allo scoperto, fa due interviste alla Stampa e al Messaggero e dice: sì, è vero, ho votato Piero Grasso invece che scheda bianca. Io, sì. Racconta in questa intervista, per esempio, alla Stampa, la trovate a pagina 6, intervistato da Andrea Malaguti, il senatore Giuseppe Vacciano. La base, se la base vuole, son pronto a dimettermi, ma perché lo chiede Grillo? Ma figuriamoci, il suo parere vale esattamente quanto quello di chiunque altro all'interno del movimento. Il voto per Grasso ha scatenato un dibattito gigantesco in rete, molti sono convinti che la scelta di non mantenere le distanze dalla casta sia stata sbagliata. Io invece credo che ci sia una differenza tra un voto destinato a una carica istituzionale rappresentativa e un voto destinato a chi deve governare. Ho scelto Grasso perché me lo imponeva la coscienza, di fronte al rischio di vedere nuovamente una persona come quella proposta dal PDL quale seconda carica dello Stato, pur tra mille dubbi e consapevole che tra PD e PDL non esiste il meno peggio, ho votato Grasso. E vabbè, da qui parte il dibattito. Pronto a dimettermi e con me anche tanti altri, racconta anche a Claudio Marincola sul Messaggero sempre Giuseppe Vacciano, che dice: riferirò tutto ai cittadini. Ora viene accusato Beppe Grillo anche di avere eliminato nel dibattito in rete molti commenti a lui negativi sul blog. Per esempio, leggete pagina 2 e 3, Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. Sul blog va in diretta la spaccatura, scoppia il caso del commento sparito. Per esempio, c'è un commento, questo che su internet tale Ferdinand Bardamu, pseudonimo ispirato alla figura dell'antieroe inventata da Céline, che a un certo punto posta dopo il post di Beppe Grillo: questo movimento per cui ho votato alle ultime elezioni non mi rappresenta più, questo ultimo post rivela la svolta autoritaria del movimento, se tra Grasso e Schifani per i deliri di onnipotenza di Grillo e Casaleggio e per il vergognoso calcolo del tanto peggio tanto meglio il movimento avesse permesso l'elezione di Schifani, allora davvero nulla avrebbe più senso. Invito senatori del Movimento 5 Stelle che hanno avuto il coraggio e la serietà di ribellarsi ai diktat vergognosi di Grillo e ai suoi deliri di onnipotenza a tenere duro. Ecco, questo commento a un certo punto sparisce dal blog 5 Stelle, dunque nuovo dibattito sulla trasparenza o meno del blog. E vabbè, è così. È così. Era abbastanza prevedibile ed è così. Bersani, in un convegno di Brescia, abbiamo fatto sentire prima l'audio, ha definito leninista il Movimento 5 Stelle, cioè questo voler chiedere, che ne so, lo streaming per le consultazioni, far sapere con Giorgio Napolitano tutte le consultazioni, però quando poi si riuniscono, come hanno fatto prima delle elezioni di Piero Grasso, lo fanno a porte chiuse. Ecco, metodo leninista, così Bersani ha definito il Movimento 5 Stelle. E insomma, che ha le prese con questa idea, che fare? Cacciarli? Vedremo nei prossimi giorni. Intanto Mario Monti è un po' deluso, anche se la delusione la maschera, scrive La Stampa, che lo va ad incontrare, perché per un attimo si è pensato che potesse diventare presidente del Senato lui, ma è stato fermato da Giorgio Napolitano e ora lui alla stampa racconta: io volevo solo la governabilità. Mario Monti, lo avevamo raccontato venerdì, era stata proprio La Stampa ad anticipare questa notizia. A un certo punto si è pensato avrebbe potuto essere lui il presidente del Senato, poi non è andata così, anche perché c'è stato un colloquio con Napolitano che ha mostrato le sue remore, e per la prima volta Monti, intervistato dalla Stampa, trovate l'intervista in prima pagina, poi continua a pagina 4 e 5, intervistato da Marcello Sorgi, racconta e conferma effettivamente questa contrarietà. Intanto Monti che dice: io non ho mai cercato posti. Nel gennaio 95, quando Scalfaro, spinto dal centro-sinistra, mi propose di guidare il governo dopo le dimissioni di Berlusconi abbandonato da Bossi, dissi che avrei accettato solo con l'accordo di Berlusconi. Il Cavaliere disse no e nacque il governo Dini. In seguito declinai l'offerta di Berlusconi da Ministero degli Esteri, da Ministero dell'Economia nel 2004. Non ho mai rincorso poltrone. Nel novembre 2011 ho accettato la presidenza del Consiglio, ma solo perché me lo ha chiesto il presidente Napolitano. Ecco, questa è la premessa, perché Monti ovviamente è stato accusato in qualche modo di cercare appunto poltrone. Invece lui dice assolutamente no. Però racconta, a un certo punto mi ha telefonato due volte Bersani, l'ultima volta nel pomeriggio del 14, mentre ero a Bruxelles al Consiglio europeo, ha accennato alle sue difficoltà ad allargare il gioco al PDL, all'indisponibilità del Movimento 5 Stelle, all'importanza che almeno Scelta Civica partecipasse alle decisioni condivise, indicando un proprio nome per il Senato o per la Camera, purché non fosse il mio, perché gli risultavano obiezioni da parte di ambienti del Quirinale. E effettivamente, racconta Monti, alla domanda lei era al corrente di queste riserve del capo dello Stato, dice: sì, me ne aveva fatto cenno alcuni giorni prima Napolitano, gli avevo fatto presente che difficilmente si sarebbero verificate le condizioni politiche che avrebbero indotto Scelta Civica a contribuire alle decisioni. Insomma, avrei sostenuto anche Schifani, non ero molto d'accordo con il no del presidente, ma ho obbedito. Poi in questa lunga intervista parla anche della sua discesa in politica. Non sono pentito di essere entrato in politica, dice Monti. Senza di noi avrebbe vinto le elezioni il Cavaliere. Dovrei organizzare ora il trasloco, ma dicono che non sarà tanto presto. Ecco anche questa battuta: dovrei traslocare dal posto a Palazzo Chigi, ma dicono che non sarà tanto presto. Ma sì, ci sarà una quadra trovata in questa situazione? Chi lo sa? Chi lo sa, cari italiani, sempre con calma, con molta calma. con molta calma, nonostante anche ieri il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, intervistato da Fabio Fazio, abbia detto ci vuole un governo e subito, e ci vuole anche che lo Stato paghi le imprese. Ieri ho letto questa che sembrava una barzelletta, non fosse una cosa drammatica: sono circa 70 miliardi di euro quello che le imprese devono prendere dalla pubblica amministrazione, 70 miliardi che lo Stato deve dare alle imprese. Per ora verranno sbloccati 3 milioni. Beh, cioè da 70 miliardi che devono, 3 milioni. Io su Twitter l'ho messa, ma insomma, la ripeto anche qui, cioè, a quando una rivoluzione non per forza pacifica? Non lo so, è così. Intanto guai per una persona che non è entrato in, che non è entrata in Parlamento, e per lui i guai continuano ad accumularsi. Antonio Ingroia, leader di Rivoluzione Civile, il Corriere della Sera racconta che il ministro alla giustizia Severino ha chiesto che venga estesa un'azione disciplinare nei suoi confronti, perché dopo l'annullamento della sentenza in corte d'appello nei confronti di Dell'Utri, Ingroia aveva rilasciato questa dichiarazione nei confronti del giudice che aveva deciso così: la mia cultura della prova viene dagli insegnamenti di Falcone e Borsellino, quella del presidente Grassi non so. Il presidente Grassi, presidente della quinta sezione penale della Cassazione, che aveva annullato con rinvio la condanna a Marcello Dell'Utri a 7 anni, ecco, questa dichiarazione di Ingroia, questo dubbio nei confronti del presidente Grassi da parte di Ingroia, gli è valso un provvedimento disciplinare. L'accusa: avere leso l'immagine della magistratura. Trovate a pagina 20 il ministro Severino, azione disciplinare nei confronti di Ingroia, ha leso l'immagine della magistratura. Intanto, mentre con calma forse riusciamo a fare le consultazioni, con calma riusciamo a fare un governo, cari italiani, oggi il Sole 24 Ore fa sapere che tra IMU, IVA e Tares, c'è la manovra in arrivo, automatica, cioè non è la manovra quella che forse ci vuole, la manovra da 14 miliardi per il governo che arriverà, no, è proprio una manovra pratica, con per esempio l'aumento dell'IVA dal 21 al 22%, lo scatto dell'IMU, lo scatto della Tares, arrivano 5 miliardi di rincari, 5 miliardi, trovate tutti i dettagli a pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore. Per consumi, casa, impresa, il fisco chiede ancora di più, sì, sempre di più. Tutti i dettagli li trovate lì, così come trovate i dettagli e la classifica che viene anticipata oggi da Sole 24 Ore delle province dove è più difficile per le imprese fare l'accesso, avere accesso al credito. Barbara Bisazza racconta la mappa del credit crunch, è una classifica non proprio simpatica che vede in testa la provincia di Varese, con le difficoltà di accedere da parte delle piccole e medie imprese al credito, al secondo posto Pistoia, al terzo posto Macerata, cioè queste sono le classifiche, si possono leggere al rovescio, le classifiche delle province dove è più difficile, è più difficoltoso per le imprese avere accesso al credito. Poi Reggio Emilia, Asti, Napoli, e insomma tutta la classifica la trovate a pagina 9 del Sole 24 Ore. Che dire, devo chiudere, sì, con una notizia di cronaca che riguarda la TV. È stata assolta Striscia la Notizia, che aveva accusato Affari Tuoi, dunque guerra tra programmi concorrenti, di truccare in qualche modo i premi truccati ad Affari Tuoi. Trovate la notizia a pagina 22 del Corriere, ma anche in prima pagina di Repubblica: il gioco dei pacchi pilotato per l'audience, la procura di Roma dà ragione a Striscia la Notizia, che era stata denunciata, querelata dai notai di Affari Tuoi. I notai hanno perso e dunque in qualche modo Repubblica dice anche la procura di Roma dà un bel tapirone d'oro ad Affari Tuoi, vinta da Striscia Notizia questa disfida dei pacchi. Mattino, la politica nel tunnel. Sono le 8:17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Come sentite, noi da giorni raccontiamo questa della politica nel tunnel, ma la politica è talmente nel tunnel, nonostante le votazioni di Presidente di Camera e Senato, che per un giorno la lasciamo lì. Tanto c'è tempo, cari ascoltatori, c'è tempo. Mercoledì iniziano le consultazioni, con calma, mi raccomando, nonostante le imprese chiudano, non ci sia lavoro, le imprese debbano ottenere 70 miliardi di euro, ma pare che gliene diano solo 3 milioni. giorni. Fate tutto con calma, con molta, molta estrema calma. Ne parleremo da domani. Oggi vogliamo parlare di una vicenda che posso presentare così. Quando voi state male, quando avete un qualsiasi problema, che cosa fate? Dove andate? Dal medico, no? Per avere una ricetta, un farmaco, fare una visita, eccetera. E beh, ma non è tutto così semplice in Italia è un paese un po' sempre più complicato. A volte le cure in Italia vengono somministrate anche per ordine di un tribunale. È un paese anche un po' strano, nel quale, come è successo la scorsa settimana, Adriano Celentano scrive al Corriere della Sera. Il Corriere della Sera pubblica un'intera pagina nella quale il molleggiato tuona contro il Ministero della Salute perché il ministro ha bloccato l'unica cura in grado di migliorare le condizioni della piccola Sofia. Le competenze in termini di sanità di Adriano Celentano a me sono sconosciute. In ogni caso, così tuona Celentano. E si riferiva appunto al caso della piccola Sofia, una bambina di 3 anni affetta da una grave malattia degenerativa, per la quale alcuni tribunali, in contrasto con altri tribunali, hanno ordinato di somministrare una cura la cui efficacia non è provata, tanto che alcuni medici hanno tuonato dicendo: ma no ministro, cosa fai? Questa cura Vannoni, così è chiamata, non ha alcuna efficacia, tu non puoi ordinare una cura che non ha una validazione scientifica. D'altronde questo è il paese in cui, ricordate, ci fu anche il caso annoso che spaccò un'intera popolazione, il caso Di Bella, no? Il metodo anticancro per la comunità scientifica non validato e che venne però somministrato a molte persone che si rivolsero ai tribunali. Insomma, temi ce ne sono per discutere di questo caso, il caso della piccola Sofia, ma non solo, in generale lo vogliamo fare con intanto un avvocato, si chiama Carlo Madaro. Buongiorno avvocato e benvenuto. Buongiorno a tutti. Lei è un avvocato esperto di questioni sanitarie, ma nel 98, io l'ho citata appunto per l'appunto e apposta la cura di Bella, lei nel 98 era il pretore di Maglie e fu il primo in Europa, mi risulta, a riconoscere il diritto per l'ammalato di tumore a ricevere gratuitamente la cura di Bella. Saluto anche il professor Giuseppe Remuzzi. Buongiorno professore. Buongiorno a voi e agli spettatori, agli ascoltatori. Lei è il responsabile di ricerca dell'Istituto Mario Negri di Bergamo, ha firmato insieme ad altri 12 scienziati, professori, un appello da mandare al ministro Balduzzi a dire: ministro, a dire che cosa, professore? Ministro, ma come fai a dare questa cura, che non è una cura nel caso della piccola Sofia, validata scientificamente? Remuzzi, come possiamo impostare questo discorso che mette insieme la speranza, il diritto di ogni malato, di ogni familiare di cercare qualsiasi cura per guarire le proprie persone, le persone malate, e dall'altra parte la scienza che ha il dovere di frenare, ma fino a quando? Ma intanto lo possiamo impostare cercando di chiarire i termini del problema. Per la malattia di Sofia non ci sono cure. Nulla di quanto è stato fatto finora ha mai dato nessun risultato. Ci sono cure sperimentali, per esempio il trapianto di midollo. C'è qualche risultato? Sì, nelle prime fasi della malattia, nelle primissime fasi. Qualche piccolo miglioramento, nelle fasi avanzate non serve. Le cellule mesenchimali l'hanno fatto, ci sono diversi studi pubblicati. I risultati? In pratica nessun miglioramento, neanche minimo. Altre cure? Si sta provando a correggere il difetto nel gene malato, cioè portiamo dentro nelle cellule il gene sano che dovrebbe sostituire quello malato. Tra l'altro lo si fa a Milano, dove ci sono grandi esperti di questa cosiddetta terapia genica. Sì. C'è qualche risultato modesto. Il metodo Stamina, questo metodo non c'entra. Questo è un metodo che rappresenta sostanzialmente un imbroglio, né più né meno come la cura di Bella. Ah, lei dice che è il metodo che è stato stabilito per sentenza. E infatti il ministro, che si è un pochino contraddetto, perché in queste cose il dramma è l'opinione pubblica. La gente vuole, la gente naturalmente si emoziona per la bambina che sta male, ci emozioniamo tutti per la bambina che sta male, e allora dice: vogliamo questa cura, in fondo se funziona, non importa. E allora i ministri, è successo anche con Rosy Bindi, era spaventata dalla piazza, sì. e ha detto facciamo una sperimentazione. Ecco, questo è il punto secondo lei, professore. E questo è il punto. Noi dobbiamo tutelare il nostro bravo ministro Balduzzi dallo spaventarsi dalla piazza. Noi dobbiamo andare diritti, dobbiamo essere, dare delle certezze alla gente. In un altro paese questo non potrebbe succedere. Non è solo colpa del ministro, dipende anche dai medici. I medici dovrebbero essere più fermi nelle loro convinzioni. Come è possibile che un ospedale pubblico come quello di Brescia accetti di somministrare a degli ammalati delle cose che non sappiamo cosa contengono? È interessante perché lei ha detto, ha bollato anche come diciamo una bufala, un qualcosa, una cura che è assolutamente un imbroglio, anche la cura di Bella, e tra poco lo vedremo anche con l'avvocato Madaro. Lei però che ne pensa, professore Muzzi, quando Adriano Celentano scrive, per metterla un po' terra terra, scrive una lettera nella quale tuona dicendo che l'unica cura viene negata a questa bambina dai ministro Balduzzi e dal tribunale, in quel caso era stato Guariniello che aveva sospeso questa cura? Guardi, Adriano Celentano è un genio nelle sue cose e bisogna prendere le sue uscite come delle uscite che possono aiutarci a convincere la gente che c'è un problema, e allora poi glielo spieghiamo e lui capisce. A me è capitato col trapianto, lui era spaventato che prendessimo i reni alle persone in coma, invece li prendiamo ai morti, aveva paura che i morti non fossero morti, gli abbiamo spiegato. Nella trasmissione c'erano 9 milioni di spettatori, lui ha convinto la gente che i reni li prendiamo ai morti. E qui è uguale, io vorrei dire a Adriano, non ci ascolterà, Adriano, ci siamo ancora al punto come l'altra volta, Adriano mi creda, sarebbe come comporre la musica fuori dalle regole del pentagramma, spero di non sbagliare, non funziona. Lui nel suo lavoro è rigoroso, è uno che cerca la perfezione. Sì. Io gli vorrei dire, Adriano, lasci che lo facciamo anche noi nel nostro lavoro. Cioè i medici facciano i medici, i magistrati facciano i magistrati e i cantanti facciano i cantanti. Certamente, certamente. I magistrati non possono prescrivere le cure, non possono dirci come dobbiamo curare i malati. Ecco, questo è un punto, questo è un punto interessante. Cioè i magistrati, secondo me, non possono, non possono prescrivere le cure. Non è materia di discussione che i magistrati non prescrivano. E allora, avvocato Madaro, io tra l'altro voglio ricordare, poi dopo le 8.30, dopo la pausa pubblicitaria, avremo anche con noi la madre di Sofia, che si unirà in questa discussione insieme al professor Remuzzi. È l'avvocato Madaro a cui vorrei dare la parola. Avvocato, al di là del, non so, è stata bollata come un imbroglio la cura di Bella, dice, so che già tanti messaggi mi sono arrivati a dire, ma no, non è vero, è stata riabilitata, cioè, non è una puntata sulla validità scientifica della cura di Bella che non spetta dare a noi. Però, avvocato Madaro, lei che ne pensa del fatto, visto che lei adesso è un avvocato esperto proprio di questioni sanitarie, che ci si rivolga a un magistrato, ci si rivolga a un tribunale per ottenere una cura? Non dovrebbe essere che si vada al medico? Io non voglio entrare nel merito delle questioni sanitarie perché io ho fatto il giudice per 25 anni e da 10 anni che faccio l'avvocato. È chiaro che come il giudice non prescrive nessuna cura, e questo è un imbroglio, cioè, chi mi ha preceduto usa parole che io girerò al dottore Di Bella eventualmente se lo vorrà denunciare per diffamazione, perché comunque al di là di queste tematiche non mi interessano. Il problema è questo: la scienza purtroppo per noi, perché lo siamo tutti potenziali ammalati, conosce una categoria di ammalati che sono i cosiddetti orfani di terapia. Purtroppo ci sono dei soggetti che contraggono delle patologie di fronte alle quali il Servizio Sanitario Nazionale, la scienza medica alzano le mani e non possiamo fare niente, non siamo in grado di prospettare nessun percorso terapeutico. Di fronte a queste categorie si pone un problema giuridico che forse chi mi ha preceduto non dovrebbe affrontare, parlare dei tribunali. Un medico può parlare dei tribunali così come io posso parlare della scienza medica, cioè sì. è un soggetto attualmente incompetente che forse farebbe bene a consultarsi prima di aprire bocca con parole di fuoco. I cosiddetti orfani di terapie hanno il diritto, questo è un concetto giuridico che ce lo impone l'articolo 32 della Costituzione sulla tutela del diritto alla salute, di tentare a proprie spese una sperimentazione a fronte di una prescrizione medica. Questo è il passaggio. Al giudice non si chiede di prescrivere la cura, si chiede sulla base di una prescrizione fatta dai medici, che hanno tutto il diritto di farla, di ordinare allo Stato di aiutare l'ammalato economicamente, cioè a sopportare il costo di una terapia, che non è un imbroglio, o non è un intruglio, cioè, sono farmaci prescritti o comunque percorsi terapeutici prescritti dai medici. lei dice il magistrato ordina allo Stato di somministrare come sistema sanitario nazionale una cura, che un medico aiutare l'ammalato a sopportare i costi della terapia, quello è l'intervento del giudice. Detto però, avvocato Madaro, non so, non vogliamo uscire da questa polemica, adesso mi vuole far querelare. La prima mi vuole far querelare il professor Remuzzi. No, io ho detto girerò, per fortuna l'ho registrata la trasmissione. Perché dire che di bello un imbroglione, come se io dicessi se è un imbroglione, non mi permetterei mai di dirlo, perché rispetto il suo lavoro. Non si esordisce in una trasmissione tacciando di imbroglione o di imbrogli. Professor Remuzzi, mi sa, siamo partiti con il piede. Il professor Remuzzi dovrebbe prima farsi l'esame di coscienza e poi aprire bocca in quel barbaro modo, perché se l'avesse detto a me che sono un imbroglione, che ho dato la vita per queste cose, probabilmente avremmo chiuso la trasmissione e ci saremmo ritrovati in un altro ambiente molto più pericoloso per lui. Avvocato Madaro, ma però i medici sono questi soggetti che hanno in mano la medicina, hanno un'arroganza tale che si permettono di esordire quello l'imbroglione. Ma stiamo discutendo di problemi. Io ho detto orfani terapie, ha un soggetto che sta morendo il diritto di chiedere al giudice, sulla base di una prescrizione medica, di poter tentare una via di uscita. Certo, ma il professor Remuzzi dice: ma ha il giudice il diritto, il giudice o magistrato, di dare una cura, di dire caro Stato, somministra questa cura prescritta da un medico? Solo che c'è un piccolo particolare, che questa cura non ha una validazione scientifica. Secondo io ho fatto la scriminante fra ammalati che hanno un percorso terapeutico che in qualche modo assicura dei risultati, e un ammalato che non ha nessun percorso, perché la stessa scienza medica lo taccia come orfano di terapie, che è destinato a morire nel giro di pochi brevissimo tempo. Però a quel punto si pone un problema di stato di necessità, queste problematiche legate alla tutela del diritto alla salute della Costituzione. Se io sto morendo, che cosa faccio se sto morendo dissanguato per una ferita, se non c'è tempo per controllare che il sangue che mi viene iniettato sia si prova tutto quello che si riesce a provare. Allora facciamo l'acqua sporca me la bevo lo stesso. È chiarissimo, di necessità che saltano tutte le regole. È chiaro che io parlare con un medico di questi concetti giuridici per me è difficile. Va bene, ma guardi, stiamo facendo un dibattito e stiamo parlando. Lei parla agli ascoltatori per cercare di chiarire. A me l'ho chiamata perché mi piace anche il punto di vista suo. Allora facciamo così: io devo andare in pubblicità, poi ci raggiungerà anche Caterina. Professor Remuzzi vuole però in 20 secondi prima della pubblicità, non so, chiarire la questione, ma perché guardi, non volevo partire così. La cosa è molto semplice, poi la spieghiamo bene anche all'avvocato. L'atteggiamento dei giudici in Italia rispetto alla cura di Bella è stato così criticato dal mondo scientifico internazionale, non da me, che il Lancet, il più grande giornale di medicina d'Europa, si è occupato di questa storia e ha fatto un titolo molto chiaro: più giudizio clinico, meno giudici clinici. Io penso che questo chiude. Allora fermiamoci così. Commenti. 24 mattino. Eccoci qua, allora sono le 8:36 minuti, stiamo parlando di diritto alle cure, di speranza anche nel caso che ha preso spunto dalla vicenda della piccola Sofia, 3 anni. Sono con noi il professor Giuseppe Remuzzi, l'avvocato Carlo Madaro, che appunto fu come pretore di Maglie il primo a riconoscere il diritto degli ammalati di tumore a ricevere gratuitamente la cura di Bella. Con noi ci ha raggiunto, la voglio ringraziare, la signora Caterina Ceccuti, la madre di Sofia. Buongiorno signora Caterina. Buongiorno, eccoci. Buongiorno. Allora, la prima... il professor Remuzzi e l'avvocato Madaro. Senta signora, intanto la prima domanda che le faccio è questa: perché voi di fronte a una cura che il professor Remuzzi ha detto purtroppo non esiste una cura per la patologia di vostra figlia, perché voi vi battete, andate comunque nei tribunali per ottenere il diritto ad avere questa cura che non è validata scientificamente? Allora, quando hanno diagnosticato alla piccola Sofia la malattia che ha, la leucodistrofia metacromatica, ci è stato annunciato, insomma, che non avremmo avuto nessuna chance di terapia genica né farmacologica per poterla curare. E a quel punto abbiamo, diciamo così, tirato i remi in barca e ci siamo semplicemente occupati di lei, cercando di starle vicino al meglio, accompagnandola in questo percorso di, di gravissima sofferenza, di grandissima sofferenza, e oltretutto è un percorso molto lungo, molto lento. Sono 2 anni che comunque Sofia è malata e la vediamo stare molto male. Il medico che seguiva Sofia, appunto, aveva trovato in alcune punturine di ossigeno poliatomico liquido una possibilità per farla stare un pochino meglio e alleviarla da dolori. Questo stesso medico ci consigliò la cura del dottor Vannoni, non come cura per la guarigione, si va di bene, sì, come semplice supporto per una vita migliore, una vita più dignitosa. Senza, con meno sofferenze. Con meno sofferenze. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo contattato il dottor Vannoni, non ci ha fatto alcuna promessa, ci ha detto la leucodistrofia metacromatica fino ad ora non è rientrata nelle cure compassionevoli che abbiamo somministrato all'ospedale civile di Brescia, però possiamo tentare perché in molte malattie neurodegenerative ha portato un aiuto, un piccoli miglioramenti che però nell'economia di una vita così devastata possono essere di grande importanza. E così, dopo che siamo rimasti, diciamo così, nel silenzio mediatico, voglio precisare questo, certo, per tutto il tempo della prima infusione le Iene erano a Brescia il giorno in cui noi abbiamo fatto la prima infusione a Sofia. Certo, sì, ricordiamo, la trasmissione Le Iene ha contribuito molto a portare il vostro caso a livello nazionale, anzi sono stati proprio i primi. Sì, e praticamente si trovavano lì e ci contattarono, si trovavano lì perché seguivano il caso del piccolo Gioele Genova. Ci contattarono per sapere se volevamo partecipare alla trasmissione. A quel tempo rispondemmo assolutamente no, per 2 motivi. Sofia non aveva ancora ricevuto l'infusione e noi a tutti gli effetti non sapevamo se la bambina avrebbe avuto o no dei miglioramenti, quindi non eravamo affatto pronti a combattere per una cura, certo, di cui non si sapeva l'efficacia. Il punto, signora Caterina, vorrei coinvolgere qui il professor Remuzzi, perché sa, professore, anche sul nostro profilo Twitter, sul mio profilo Twitter, molte persone mi dicono, ma il professor Remuzzi, che è uno scienziato, eccetera, la parola è il senso della speranza. Capisco, io la giro a lei questa parola, il senso della speranza, perché non lo si può in qualche modo affrontare anche con cure che la signora Caterina ci dice nessuno ci ha promesso che siano cure risolutive, ma sono cure che possono aiutare ad alleviare la sofferenza della bambina. Professor Remuzzi. Il mio lavoro è dare speranza a persone che non ne hanno per l'80% della mia giornata, quindi si figuri se io non sono sensibile a chiunque possa dare qualunque tipo di speranza. Il problema è che un conto è la speranza e un conto è fare delle mosse che possono essere persino pericolose. Io vi racconto una storia. C'è un bambino di 13 anni, sta in Israele, ha una malattia neurodegenerativa, non è la stessa della piccola Sofia, è una malattia simile. Quello che fanno contro il volere dei medici, i genitori, è portarlo a Mosca. Lì c'è qualcuno che gli dice, io inietto delle cellule che risolveranno il problema. 4 anni dopo questo bambino ha mal di testa, fanno un attacco, e viene un tumore del cervello che non è del bambino, viene dalle cellule del donatore. Allora noi dobbiamo fare le cose con un estremo rigore, anche quando vogliamo dare speranza, anche quando facciamo delle cose al limite. Calcolate che chi ha fatto la prima dialisi faceva delle cose assolutamente al limite, queste sono giustificate, tutti morivano. Quando Kolf ha fatto le prime dialisi sono morti 14 pazienti, uno è vissuto, lui è andato avanti, c'era un razionale, c'era una logica. Noi per Sofia possiamo fare una cosa seria e quindi, siccome c'è qualcosa, a differenza della questione di Dibella, che era tutto diverso, lì in letteratura non c'era nulla, qui ci sono dei dati, ci sono degli studi, sono negativi, ma fanno vedere che la strada potrebbe essere percorsa. Allora facciamo una cosa veramente rigorosa, lo facciamo nell'ambito di una sperimentazione clinica, sappiamo che è una cosa estremamente sperimentale, sì, però abbiamo delle cellule sicure, sono delle cellule controllate, ma non diamo le cellule così. Non basta che le cellule vengano fatte in un laboratorio autorizzato. Questa posizione è molto chiara. Signora Caterina, voi vi siete posti il problema del affrontare un qualcosa che il professor Remuzzi ha subito definito un imbroglio in maniera molto, molto chiara, che potrebbe anche essere addirittura dannoso se non lenitivo. Ma senta, dannoso, diciamo così, dipende dai punti di vista che cosa si intende per dannoso, perché tentare comunque una terapia, una cura compassionevole verso una bambina che sta per morire, per cui mi dice giustamente il professore, dopo 4 anni il bambino ha mal di testa, beh, quando abbiamo fatto l'infusione a Sofia, Sofia non aveva solo mal di testa, vomitava, pesava 8,5 kg e aveva una febbre neurologica e stava comunque morendo, perché quello magari che non si tiene in considerazione è che questa fetta di pazienti, come diceva anche lei prima, è una fetta orfana di terapie di alcun tipo. Mm. Sicuramente la sperimentazione che il professore magari metterà a punto, che per lui tra qualche anno consentirà di fare delle cure, certo, compassionevoli. Però lei dice per Sofia insomma è anche una corsa contro il tempo per cercare di affrontare il problema oggi. Io vorrei coinvolgere su questo anche l'avvocato Madaro. Avvocato, secondo lei sono tante le persone in Italia che si rivolgono agli avvocati, al percorso della magistratura, a bypassare il tradizionale, quello che dovrebbe essere scontato percorso, cioè sto male, vado da un medico, mi affido a un medico, e se sì perché? Guardi, i casi sono tanti, ma non è che vanno dall'avvocato senza passare dal medico. Forse il dottor De Muzzi, no, questo passaggio non lo vuole affrontare, perché su questo ci sarebbe da discutere moltissimo. Cioè l'ammalato va prima dai medici, che hanno tutto il diritto, in quanto persone abilitate, avendo la laurea e l'abilitazione a svolgere l'attività di medico, di prescrivere delle terapie che, secondo loro scienza e coscienza, così dice il codice deontologico, si assumono loro la responsabilità, soprattutto quando hanno di fronte degli ammalati per i quali la scienza medica non è in grado di fornire alcuna speranza, che sono soggetti, come dire, destinati in tempi brevissimi a morire. Quindi secondo la logica umana e il buon senso di tutti, una persona che sta morendo può aspettare i tempi della sperimentazione prima di iniziare una terapia sia pure ancora non validata, o ha il diritto, perché sta morendo, di tentare quella strada? Certo, ma scusi avvocato, una persona in libera coscienza può fare tutto quello che vuole, però dal punto di vista della scienza, dice, perché la scienza deve validare una cosa in virtù di una urgenza e necessità, violando tutti i protocolli di... solo un minuto, sì. Cerco di farmi capire. La scienza fa bene a non riconoscere quelle terapie, perché non può fare diversamente, perché la scienza detta le linee guida per tutti di carattere generale per seguire i percorsi terapeutici, appunto, della medicina. Ma in questi casi sfuggono alle regole anche della scienza medica, perché c'è uno stato di necessità, o si interviene subito o la persona muore. Cioè, come possiamo noi applicare le regole a persone che non hanno il tempo per rispettare le questo regole? È un punto interessantissimo, da qui riparto tra un minuto dopo il traffico. Cioè dice l'avvocato Madaro, ma perché dobbiamo sempre aspettare i tempi della scienza, quelli che il professor Remuzzi dice tra pochi anni porteranno magari a delle cure più validate per affrontare questi casi? Qui c'è uno stato di necessità e quindi è legittimo rompere anche quel meccanismo e accelerare questa situazione, perché siamo di fronte a uno stato di necessità. Eccoci qua alle 8:48 minuti, ci sono tantissimi ascoltatori che ci chiamano. D'altronde il fenomeno è anche, io per esempio su Twitter è nato questo hashtag Salviamo Sofia. Capite che insomma anche il ruolo dell'opinione pubblica, come diceva il professor Remuzzi, è un ruolo fondamentale in questi casi. Daniela da Trento, buongiorno, ci ha chiamato. Buongiorno Daniela. A voi. Io volevo solo fare il punto su un particolare che il dottor Vannoni, proprio nella trasmissione Le Iene, ha fatto presente, parlando del suo intervento, che non è un trapianto, ma è, sì, mi correggano gli illustri ospiti che lei ha eventualmente, un'infusione, che è comunque, appunto, quindi non c'è, non viene, ma solo che da quello che io ho capito, il protocollo sopra ogni cosa praticamente viene classificato come un trapianto, e quindi solo per una questione burocratica si impedisce a questa famiglia di coltivare una speranza che non è basata su superstizioni, mm-hmm, o interventi di stregoni o che so. Ecco, è basata su dei fondamenti scientifici e siccome ho sentito... Guardi, però Daniela, i fondamenti scientifici, cioè io non voglio entrare in questa cosa perché non la padroneggio quanto lei, il professor Remuzzi la padroneggerà di più, e che non abbia validazione scientifica, la validazione scientifica sono dei canoni protocollati, questo è stabilito, cioè è certo da parte di tutti, cara Daniela, cioè che questo metodo non abbia validazione scientifica, diamolo per assodato, lo stesso professor Vannoni lo sa, o no professor Remuzzi, è così? Cioè non c'è una validazione. Ma sono stati fatti delle investigazioni dal punto di vista dell'AIFA, dal punto di vista dell'Istituto Superiore di Sanità. Non sappiamo che cosa contiene questo che viene somministrato alla bambina. Capite che non lo possiamo fare. Però il punto che dicevo... Vannoni non è un medico, Vannoni è un laureato in lettere che insegna psicologia della comunicazione, è stato entusiasta di una cura che hanno fatto a lui in Russia per una paralisi del facciale secondaria, un herpes, è guarito. Tutti i nostri malati guariscono di questa malattia senza fare nessun metodo Vannoni e ha messo su questa cosa. Ah, quindi io l'ho chiamato professore ma non è neanche medico. E però non sappiamo che cos'è. Però professor Remuzzi, quando l'avvocato Madaro chiede e dice ma insomma, ma vi rendete conto che non possiamo rispettare sempre i tempi della scienza, c'è qui anche la signora Caterina che l'ascolta, ma qui c'è una questione di sfuggire a queste regole della scienza, ma perché guardi, c'è uno stato di necessità. Guardi Milan, che per lo stato di necessità la scienza anche per la bambina è in grado di fare qualcosa di fatto bene, anche oggi pomeriggio se volessimo farlo, perché quello che ho detto io non va da 3 anni, quello che ho detto io nei posti giusti si fa e vi ho detto che c'è un minimo di appiglio di letteratura per fare una cosa seria, cioè per studiare la bambina prima, per fare le cellule in questi giorni e per studiarla dopo. E per tra l'altro fornire l'informazione anche per gli altri bambini se questo serve o non serve. Voi signora Caterina lo sapevate, perché se vuole io col professore Muzzi vi metto anche in contatto perché dice che ci sono delle possibilità ulteriori che non siano quelle del metodo Vannoni e che hanno un appiglio un po' più solido, capisce signora? Allora guardi, due cose. La prima è che è vero che il professor Vannoni, professore perché insegna comunque, quindi sì, certo, non è un medico. Non è un medico. Non è un medico, ma questo lo sanno tutti, non è un medico. Il cosiddetto metodo Vannoni in realtà è il metodo Stamina, cioè quello di questa fondazione Ondus, che si è presieduta da lui, però ha un team di medici e biologi, quindi non è che è il professor Vannoni che va a differenziare le cellule. Però quello che forse non si ricorda mai è che questa metodologia è stata viene applicata ai pazienti all'interno di una struttura pubblica. Che, certo, certo. Non è stata imposta questa struttura, non è nata come un fungo. A suo tempo sia AIFA che il Ministero della Salute avallarono questo protocollo per le cure compassionevoli. Noi siamo stati di recente a Brescia, meno di una settimana fa, e io ho potuto parlare sia con i responsabili del laboratorio che con i responsabili del centro trapianti che hanno effettuato loro in prima persona l'infusione a Sofia, non si parla dei medici di Stamina, e nessuno di questi professionisti si sente in alcun modo bypassato o superato nel proprio lavoro. Infatti prima il professor Remuzzi diceva è incredibile come un ospedale pubblico validi un metodo che non ha validazione scientifica, lei invece fa un plauso, dice meno male che c'è l'ospedale di Brescia che fa questo? Ma a parlare con i responsabili del laboratorio non sembrerebbe affatto che questa metodologia sia così pericolosa, anzi i responsabili dicono che viene controllata in maniera meticolosa. L'ha detto anche Spiazzi ieri sera alle Iene, appunto, professor Spiazzi, però comunque io ho parlato anche con i responsabili del laboratorio perché non voglio infondere a mia figlia una sostanza nociva, è chiaro che prima mi sono informata, soprattutto che prima ho parlato a lungo con i genitori dei bambini che sono in terapia e sono riusciti a completare, come nel caso di Celeste, la terapia delle 5 infusioni. Allora, i responsabili del centro trapianti non ravvedono tutta questa pericolosità di cui si parla nella comunità scientifica. C'è, mi permetta di dire anche questo, una diciamo così discordanza anche tra le opinioni all'interno della comunità scientifica, perché per esempio i medici della struttura pubblica ospedaliera di Firenze che seguono Sofia sono assolutamente favorevoli a questa cura compassionevole, perché hanno registrato di prima persona i piccoli miglioramenti di Sofia, quindi si parla di un neuropsichiatra, di un oculista. Sì, quindi c'è diciamo una divisione, una spaccatura, non unanimità nel dire questa cura non ha nessun tipo di validazione scientifica. che dire, io mi devo fermare qui. E ovviamente i temi, gli ascoltatori sono tanti, il tema è anche molto interessante, non è neanche escluso che torneremo su questa vicenda. Per il momento vi ringrazio davvero tutti, sia il professor Remuzzi che l'avvocato Carlo Madaro e la madre Caterina Ceccuti. E ovviamente a voi mandiamo un grosso abbraccio per tanta fortuna per questa vicenda. E, che dire, potete riascoltare tutto su radio24.it. Potete anche seguirci sul nostro profilo Twitter, io sono Alino Milan, c'è la trasmissione 24 Mattino e da parte di tutti, da Miriam Lucchetti, da Elisabetta Fuscone, Alessandro Longoni, Valentina Magri, il nostro alpino Peter Bescapè, l'appuntamento è rinnovato a domattina, come sempre iniziamo alle 6.30. 24 Mattino.